Succederà che un giorno tu, prima o poi, mi odierai, mi odierai, mi odierai, come ho fatto con i miei. Ma non sai che quando ho smesso di vedere con gli occhi di un figlio, mi sono reso conto di quanto assomiglio mio padre ai silenzi di mia madre. Mi spiace se poi con te io farò uguale, e un giorno tu vorrai cambiare nome. Ma mi scuserai se a volte sbaglio e non mi sveglio, che devi andare a scuola presto e fai ritardo. Da una vita senza di te non so bene come starmi accanto, e non esiste un manuale da seguire per amare. Sembra un paradosso, ma da un giorno all'altro, oh, sono io che ho bisogno di te, e di quanto hai bisogno di me, magari pure arriveranno la consapevolezza e l'esperienza di una vita. Avrò imparato solamente il modo di sbagliare con te, con te, con te. Poi vedrai, poi vedrai, poi vedrai che è vero che non esistono istruzioni. Casomai lo vorrai, capirai sul serio. Succede da generazioni che non sappiamo dormire da soli, ma ci improvvisiamo genitori. Da una vita senza di te non so bene come starti accanto, e non esiste un manuale da seguire per amare. Sembra un paradosso, ma da un giorno all'altro, oh, sono io che ho bisogno di te, più di quanto hai bisogno di me, e non so neanche se sia sensato questo mio discorso, ma lo so che qualcuno lo decide al posto nostro. Se sia giusto che io pensi a un figlio, che gli parli come fosse al mondo, queste cose potrò dirle un giorno. Risentiamoci tra qualche anno.